cuore senza amore, cosa mai t'ho fatto che ad un tratto mi lasci tu? Come mai ridotto, sembro di pancotto, vivo di bromuro, mi trascuro, non reggo più. Io non mangio, penso a te, caspita, io non dormo, penso a te. Tutto questo sai perché? Io spero. Chi vive di speranze se ne muore. Io muoro, che già fa? Mi consumo, sì lo so, mi stravaggio, sì lo so, ma finché speranza avrò, io continuo a sperare, sfogliando margherite sul mio cuore, il cuore ci munisce, che già fa? Perché non torna ancora un'ora in braccio a me? Mai più ci lasceremo e se ne torni tu. Io non mangio, penso a te, e caspita, io non dormo, penso a te. Tutto questo sai perché? Io spero. Chi vive di speranze se ne muore. Caspita, io muoro, amore, che già fa?